tua mia bambina, torna qui dai piccolina. Quando ero con te sembrava tutto ok, eri in mezzo all'universo, in una specifica stella ancora ti penso. Ricordo quando stavi con me, sembravi chiusa in una cella, non ti allontanavi mai, mai bella. Mi stavi attaccata, ci offriamo una serata. Amore, ti amo, per te ti canto pure una serenata. Ti combino una cosa spannata, come quella tua amica mezzanata, che a causa della sua sciamezza ti ho lasciata, che demenza. State attenti da quello, ti prego, dammi la sorella. Voglio convivere con una persona speciale, come quella con cui ci ho vissuto te. Questa sì che vale, sì che vale. Hai una faccia tale quale mia nonna da giovane, che come te una persona ha dedicato una canzone. Esposto il tuo nome nel terrazzo, ogni lettera del tuo nome che scrivevo diventavo pazzo a cazzo. Questo era un andazzo, quelle giornate sì che erano uno spasso. Facevo passo dopo passo, bacio dopo bacio. Tesoro, queste strofe io ti caccio, parto io sempre adagio adagio, cantando sempre di quella canzone di Biagio. Seguendo nel tuo preferito stadio, quando ti accompagnavo nel tuo alloggio, tu da lontano mi servivi d'appoggio. Ma adesso non so dove sei finita, non so cosa fai, e sei morto viva. Torna qui dai, mia piccolina bambina. Andavamo a fare un salto a salutare tua madre al cimitero. Auguro che questo è stato un bel pensiero, spero che il nostro è stato un rapporto serio. Aspettavo da tempo e questo ti dicevo, questo lungo criterio. Immagino che sei sincero, vero? Sei sincero, vero? Regina, vorrei farti brillantine e oro regalarti, ma non voglio che parti. Credo, vedo, quel che cedo per te piccolina. Quando ti ho regalato quella vestina, lo sai che eri proprio carina. Io di te ho molta stima, mi manda al settimo cielo, diciamo in cima. Non farmi questo bambino, non sarei in grado di ritrovare un altro come me. Sarà faticoso addirittura anche per te, che peso ha avuto ogni cosa tutto facilmente. Come prendere una rosa, tu sei la mia sosia. Però da come ti stai comportando sembra di no, che sbando. Sto facendo una serie di casini nella mia dispersione, che ti ho dato il mio pistone, che coglione. Per me sei diventato un tormentone, sei sempre stata per me una donna in calore. Mi stavi a fianco anche nei momenti difficili, che per molta gente non poco capibili. Mi facevi massaggi e bicipiti per tenermi versato, ma adesso lo chiedo precipiti. Ora non mi pensi più, eri bella come il mare blu. Cosa vorresti avere se non è tutto a tua disposizione? Un altro scemo come me, un imbroglione. Non so dove sei bella, non so cosa fai sorella. Se sei morto io mia bambina, torna qui dai piccoli.